sorpresa. Mi sembrate un po' mosci, facciamo un gioco. Allora, tutte le puttane da una parte e i proci dall'altra. Ma io non sono mica procio. No, il gioco delle bugie lo facciamo dopo. Allora, io conto fino a 30 e nel frattempo voi vi scambiate le puttane. Destination